Componimento 122esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. 17 anni ha già rivolto il cielo, poi che in prima arsi, e giammai non mi spensi. Ma quando avven ch'al mio stato ripensi, sento nel mezzo delle fiamme un gelo. Vero è il proverbio ch'altri cangia il pelo anzi che il vezzo, e per lentari sensi gli umani affetti non son meno intensi. Ciò ne fa l'ombra ria del grave velo. Oimè, lasso, e quando fia quel giorno che mirando il fuggir degli anni miei esca del foco e di sì lunghe pene. Vedrò mai il dì che pur quant'io vorrei quell'aria dolce del bel viso adorno piaccia a quest'occhi e quanto si convene? Fine del componimento.